Certamente c'è la crisi dello Stato-nazione, no? Sono questi stati che sono ormai delle forme vuote, cioè sono delle forme vuote che fanno solo manifestazioni di potenza, la polizia appunto che entra nei seggi, una cosa che nessun democratico avrebbe mai pensato di dover vedere, oppure i muri che vengono eretti a difesa dei confini che non ci sono più. Quindi sono tutte manifestazioni paradossali di potenza di stati sempre più impotenti. Cioè questa dialettica tra impotenza reale e ostentazione di potenza che secondo me è l'effetto più devastante della crisi della forma Stato, diciamo. Però nel caso spagnolo a me sembra che ci sia anche un grande scacco della politica, non solo dello Stato, proprio della politica come capacità di mediazione, perché a leggere chi ne sa più di me, beh, insomma, quella era una crisi abbastanza risolubile, si poteva tentare di mediare, di riportare a delle forme di consensuali di risoluzione, invece è stata fatta precipitare tirando fuori questo valore schermo della patria che copre delle motivazioni sia storiche sia recenti, perché lì ci sono anche gli effetti devastanti della crisi del 2007 che ha cambiato le carte dell'economia sia in Catalogna che in Spagna. Allora, le emozioni, questo venir fuori di un cittadino democratico carico di emozioni, niente affatto razionale come ce lo restituisce la teoria politica della modernità, eccetera. Questo è vero, però questo secondo me è stato sempre vero. La democrazia è basata sul controllo delle emozioni, no? Se noi pensiamo a Hobbes, la teoria hobbesiana, è una teoria del controllo della paura, sostanzialmente. Qual è il punto? Che adesso io penso che siamo di fronte invece a un rovesciamento, perché chi ha in mano il potere, gli stati ma anche i media, non fanno altro che costruire finte emozioni. Questo è il punto, non è solo o tanto che siamo esseri umani, quindi esseri emotivi, emozionali, pieni di sentimenti, di passioni, ma la politica è sempre stata in grado di incanalarle, le passioni. Ieri sera io ho fatto questa meravigliosa conversazione con Angela Davis, e certamente lei è una testimone di una stagione di grandi passioni politiche. Il punto è che oggi queste emozioni sono molto costruite ad arte. Pensiamo a tutta la paura degli stranieri, che è una cosa del tutto irrazionale, e io credo molto costruita. Quindi forse quello che noi dovremmo fare è imparare a decostruirle queste emozioni e anche a maneggiarle in altro modo.